sempre Vabbè, in una parte movimento. importante pure il discorso proprio di produttivo rispetto a una cosa del genere, di stare un anno in un posto per poi farne un lavoro concreto che è un libro, una mappa, Infatti. no? Cioè noi cerchiamo di, ovviamente, di farlo per attitudine, di farcelo sempre da soli, non per restare isolati, ovviamente, ma per mantenere quell'autonomia che ti permette di andare in un posto e, diciamo, guardare le persone negli occhi, senza che sto là a fare la dama di carità. No, io vado là perché lo voglio fare, innanzitutto perché mi diverto a farlo. E poi il fatto che non vado là, diciamo, a farlo con i fondi regionali, e vado con questa determinazione che mi apre delle porte, no? Proprio perché ti racconta una sincerità. Poi ovviamente le persone, giustamente, nel video che mostrammo l'anno scorso, proprio uno dei ragazzini che dipingeva con noi lo diceva: "Tu come campi? Come fai a farlo?" Anche questo è il discorso da tenere presente, il fatto che se tu lo decidi di fare una cosa, devi anche pensare a come finalizzarla, a come riuscire poi ad andare in tipografia e sostenere un costo del genere, però mantenendo quell'autonomia di cui parlavo prima. Quindi noi in questo caso qua abbiamo fatto una cosa molto semplice. Prima di iniziare, abbiamo fatto una dozzina di disegni, abbiamo chiesto a delle persone che sappiamo, diciamo, non gli fa molto peso darci 200 euro per un disegno. Ma non sto dicendo che sono andato da gente ricca, sono andato da gente con uno stipendio che magari non gli dà troppo fastidio fare questa cosa, sapendo che io vado a fare una cosa che magari a lui può piacere, così. E abbiamo accumulato un tot di soldi per sostenere proprio le spese di viaggio, il mangiare, così a dormire andavamo da lui. Sì, quello è proprio l'ultimo dei problemi, perché è talmente facile trovarlo nella spazzatura o te lo regala. Poi a un certo punto tu ne fai uno, fai il garage di una persona, nel garage sicuro c'è un bidone di pittura che sta là da una vita. Quindi proprio i costi materiali di andare da Napoli a Taranto, comunque c'è il treno. E quindi fin quando avevamo i soldi siamo andati. Poi dopo un anno, ovviamente, per non farla diventare troppo insostenibile la cosa, abbiamo smesso. E abbiamo fatto la stessa cosa alla fine. Per ammortizzare un po' i costi del libro, abbiamo fatto altri 10 disegnini proponendoli a delle persone. E così abbiamo ammortizzato un po' i costi, ovviamente, perché è una spesa enorme fare un libro tutto a colori, con una... Ma poi ovviamente noi lo vogliamo fare bello, che dia valore al lavoro. Cioè, ci hai speso un anno, lo devi fare come vuoi tu poi alla fine, non lo puoi fare, non ti puoi preoccupare se costa un po' di più, devi cercare il modo di farlo, e questo è da tenere presente. E alla fine comunque, diciamo, qua arrivate voi che vi comprerete il libro e ci sostenete. Sempre 500 come quell'altro, però quell'altro in un anno l'abbiamo finito, non ce ne stanno più. Che è una cosa, cioè, magari da un punto di vista di un editore è ridicola, però dal punto di vista nostro, che ci mettiamo i soldi di tasca nostra, è una soddisfazione finirlo. Poi non c'è più, non c'è più, va bene. Non lo ristamperemo perché è costosissimo. Penserà alla città antica, la città vecchia. E questo noi abbiamo stampato sempre 500, potevamo farlo venire più economico, ma non ci piaceva, lo volevamo fare. Magari da farla d'oro la copertina, davvero, più massiccio. L'abbiamo fatta di metallo perché ci pareva sensato, no? In un posto dove l'acciaio comanda. Inoltrati, cioè quello che faremo noi quando verremo con la piantina, chissà, forse, però grazie di averlo fatto voi, aver iniziato a esplorare questa città vecchia. No, quella è la parte più divertente. E mi è venuta in mente una poesia che ha studiato lui ieri. Come si intitola? Come si intitola quella poesia? Dai, di Pinto la città vecchia, di Saba, in cui Saba, la città vecchia è qui, cioè lui vuole spiegare la ricchezza che trova in questa, nell'attraversare la città vecchia. E cercavamo ieri di spiegare, discusso un attimo, che doveva fare due risposte di una riga, no? Una riga per fargli fare due righe invece di una riga. Abbiamo proprio parlato di questi temi, della ricchezza delle persone diverse e degli umili, tra virgolette, che certo sarebbe meglio non fossero magari umilissimi, però comunque nella loro, cioè sono una ricchezza, perché sono, come ognuno di noi è diverso, possiamo vedere anche, grazie a voi, questo video delle realtà che non conosciamo. Grazie. No, davvero è importantissimo. Io sono strabiliata. È davvero, ma a parte è ricchissimo, è incredibile. Anche questa cosa della processione, io pensavo fosse caricata, perché poi appunto si sovrappone al disegno dietro. Sembra veramente una roba di Jodorowsky, sembra veramente vestiti apposta per questa cosa lì. È incredibile, è fortissimo. Sì, no, ma quella c'è una forza straordinaria. Poi ci stanno un sacco di storie dietro, cioè la gente paga per stare vestito così. E più c'è povertà e più vogliono pagare, più si indebitano, cioè sono storie pure perverse dietro queste cose. Certo, però che non vengono raccontate, se vengono raccontate vengono raccontate come stereotipi, come, cioè è facile puntare il dito e dire che dietro queste cose ci sta la malavita, o che, però poi ci sta pure un sentimento del sacro che è andato abbastanza a puttane. È un'altra cosa che, vabbè, è banale, retorica, quello che volete, però ti senti italiano in un modo che dici, ma dove vivo? Esatto, no, ma non conosciamo niente. Vivo, ma è lì. È pazzesco. Io un po' il sud lo conosco, però. Però non è tanto colpa nostra, non so come dire. Ma senza pensare alle colpe e non colpe, proprio una lontananza, sì. No, in effetti c'è un abisso comunque, quando io lo vedo proprio quando vengo in treno, cambia il paesaggio, cambia la struttura della città, è tutto completamente diverso. E invece questa cosa della cornice che dicevi prima è importante, perché comunque, non so, a me permette di riavvicinarmi, no? Perché è qualcosa che comunque riesco a sentire. A leggere. Sì. Perché quella roba lì che mi fa pensare, cazzo, è l'altro ieri, non è 50 anni fa, ed è importantissima, anzi fondamentale, ed è molto bella, tra l'altro.